Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Stasera mia moglie è con le sue amiche. Sarà una serata un po' malinconica. Bevo un amaro, vado al videopoker, faccio quattro passi tra i negozi del centro, poi leggo un'insegna che dice così: massaggio romantico per una notte romantica. È proprio un bel posticino. Quanti di voi sanno cosa sia il massaggio romantico? Il massaggio romantico è quello che probabilmente è risultato fatale al ultra settantenne di Moncalieri, che è rimasto proprio secco sotto il massaggio romantico. Le signorine cinesi che si sono prodigate per le cure estetiche di questo signore sono state incriminate di omissione di soccorso. Quanti italiani si dedicano alla cura del proprio corpo? Ma cosa fanno? Pulizia del viso? Si depilano le ciglia? Si tolgono i brufoli? Si fanno pedicure e manicure? Si fanno massaggi romantici? Sì, perché ormai l'Italia è piena di saloni di massaggi e cure estetiche, dove ci sono parrucchiere, pedicure, manicure, estetiste. Io immaginavo che di vedere un via vai di signore e vanno lì a farsi belle. No, non entra mai una donna, entrano soltanto uomini di una certa età, umarel, persone un po' tristanzole. Ma siamo contenti, siamo felici che finalmente il genere maschile attempato italiano ha deciso di curare la propria estetica. 800240024, a tra poco, massaggio romantico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Entro dentro e mi sorridono. Konnichiwa. Buonasera signorina. Mi stendo nudo sul lettino. Lego stende nudo sul lettino? Brr, che freddo. Mi frizionano tutto il corpo, poi mi fanno l'occhiolino e all'orecchio mi sussurrano così: vuole massaggio romantico per una notte romantica. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Chi glielo spiega, mia moglie? Devo dire che molte volte mi sono soffermato a guardare il listino prezzi di questi centri estetici, dove si cura naturalmente l'aspetto della piacevolezza del corpo umano, dedicati stranamente soltanto a un pubblico maschile. Evidentemente le signore non hanno tempo, hanno altre cose da fare, sono situati in delle strade secondarie in cui normalmente non passano le signore, cercano una parrucchiera, una pedicure, una manicure, una signora che faccia la pulizia del viso, queste cose che penso vanno a fare tutti gli umarel che invece vedo a fare la fila davanti a questi garage riattrezzati in luoghi di cura estetica. Ripeto, ci fa molto piacere pensare e capire che finalmente gli uomini italiani, che erano abbastanza trascurati nella cura del loro corpo, si dedichino anche, diciamo, a essere più piacevoli. Però fate attenzione, perché il massaggio romantico, che diciamo è una delle voci sicuramente più costose del listino prezzi del centro estetico gestito sempre da signore e signorine cinesi, è in varie versioni. C'è il massaggio romantico single, a due, con la vasca giapponese, con l'olio ayurvedico. Si esce bellissimi dopo il massaggio romantico, ma attenzione, magari prima andatevi a fare un check-up, misurate la pressione, fatevi un elettrocardiogramma, andate in farmacia, fatevi dare le aspirinette per il coccolone, perché sapete, è faticoso il massaggio romantico. Fuori di battuta, anche perché se cominciano a lasciarci le penne, voi direte sì, ma però vuoi mettere, è una dipartita che tutti vorremmo, ma fino a un certo punto. Non credo che l'ambiente del massaggio romantico sia di quelli più romantici, proprio per dire, però è un dato di fatto che oramai i saloni estetici gestiti da cinesi hanno riempito le vie di tutte le città italiane, sono aperti giorno e notte. Infatti mi sembra singolare, io devo conoscere una signora che vada a farsi la permanente di notte, a farsi fare la tintura dei capelli di notte, eppure sono sempre aperti, uno passa a mezzanotte, alle una, c'è sempre la signorina che sta lì pronta, che aspetta, c'è tutto il listino prezzi, capelli, permanente, tintura, piedi, unghie, tutte le cose che si fanno, e poi c'è massaggio romantico. Poi vedo sempre questi signori un po' anzianotti, un po' con l'aria colpevole, disertano la bocciofila, disertano il centro anziani, disertano la partita carte con gli amici e vanno a farsi cosa? Il massaggio romantico. A Milano i centri massaggi sono più di 300, quasi tutti in mano a cinesi o a persone di nazionalità orientale. La metà di questi vengono definiti centri di disciplina bionaturale. Aprile è facile e non c'è bisogno di particolari certificazioni. Chiunque lo può fare perché non hanno finalità estetiche, ma solamente genericamente dette di benessere. Ma il concetto di benessere è ampio. Per dimostrarlo abbiamo passato una notte a suonare alle porte dei centri massaggi, facendo una richiesta precisa. Ciao! Ciao! Volevo sapere... Massaggio? Fate il massaggio romantico? Sì. Fate massaggio romantico? Sì, romantico. Quanto costa? Metto ora, fanno romantico, tutto 50. Tocchi dappertutto? Posso toccarti? Un pochino, va bene. Mi tocchi con la mano? Sì. E io posso toccarti? Questo era un servizio, poi lo risentiremo, della stampa di, a cura di Alessandro Sarcinelli, e l'altro massaggio romantico, quello cantato, è una divertente rilettura di questo episodio di un cantautore, Ruggero dei Timidi, che è un personaggio emergente, questo signore grassoccio, la moglie esce con le amiche e lui va a farsi il massaggio romantico. Sarcinelli ha cominciato a suonare porta a porta e abbiamo capito veramente, anche se lo sapevamo naturalmente, tutti lo sanno cosa sia il massaggio romantico, che in realtà ci si va soltanto per il cosiddetto massaggio romantico, che è, diciamo, una versione a pagamento dell'antica e imperitura attività amanuense che di solito un uomo dall'adolescenza fino alla tardissima età svolge in maniera autonoma e autarchica. In questo caso l'affida al tocco orientale di una signorina cinese che per pochi euro gli fa il massaggio romantico. È una forma, diciamo, di relax consentita. Uno non si sente di aver saltato il fosso, di essere proprio andato con una prostituta, ma c'è un ricordo probabilmente, non so, di passati momenti fanciulleschi, adolescenziali. Questi signori si abbandonano al massaggio romantico. 800 24 00 24, confessate, avete mai praticato il massaggio romantico? Conoscete persone che si dedicano alla cura estetica e quindi al massaggio romantico? Signore che ascoltate oggi, chiamate, perché normalmente vi astenete quando sono questi temi. Sapete che i vostri mariti, con la scusa della sciatica, della lombaggine, dello stiramento, del colpo della strega, dice vado a farmi un massaggio in un salone cinese e poi in realtà si fanno il massaggio romantico? Daniele Cologna, buongiorno. Buongiorno. Daniele Cologna è un sociologo delle immigrazioni, un sinologo esperto di immigrazione cinese in Italia e fondatore dell'agenzia di ricerca sociale Codici di Milano. So che il suo campo di attenzione e di studio è molto più ampio e anche molto meno degno di suscitare un minimo di ilarità, però vorrei capire come si è organizzata questa forma di, in fondo, semiprostituzione velata, per cui l'Italia improvvisamente, evidentemente c'era una lacuna, da che i centri estetici erano pochissimi, riservati alle signore, a qualche uomo particolarmente narciso, oggi è diventata una delle attività commerciali più visibili nelle nostre strade. Cosa hanno capito i cinesi che mancava alle nostre latitudini e come si sono organizzati? Ma la proposta di centri massaggio credo sia nata originariamente un po' su uno sfondo emulativo, cioè attività di cura del corpo a costi contenuti nelle città cinesi sono abbastanza frequenti, tendenzialmente coinvolgono massaggi di carattere rilassante o di benessere, ma c'è spesso, se non voglio dire sempre, ma c'è spesso anche una componente diciamo così sensuale, se non propriamente sessuale. Credo. Quindi il massaggio romantico è un'aggiunta per il target occidentale o comunque era contemplato? No, è qualcosa che esiste anche nel contesto di origine, è solo che in Cina andare a farsi fare i massaggi non necessariamente implica il massaggio romantico con l'happy end, può essere semplicemente qualcosa che si limita ad un massaggio ai piedi o alla schiena. Però c'è questa possibilità e il fatto che questa possibilità ci sia ha probabilmente condotto anche le prime realtà che si sono proposte come massaggiatori in Italia a fare di questo un po' uno dei loro caposaldi per una penetrazione in un ambito commerciale che era ancora relativamente sguarnita. Va detto che però le prime esperienze di centro massaggio con donne cinesi attive in questo senso sono state aperte insieme a imprenditori italiani, cioè sono stati imprenditori italiani del settore delle palestre, delle spa, di centri estetici che hanno immaginato questa possibilità. Poi si è creato uno spin-off, diciamo, da questa iniziativa commerciale, si sono messi in proprio e hanno capito che diciamo il segmento di mercato che più tirava era quello del massaggio romantico. Esatto, è anche se è un mondo molto più complesso di quanto non si creda. Di fatto le ricerche fatte sul campo, che non sono tante peraltro in Italia, mostrano che la realtà dei centri di massaggio cinese è più articolata di come uno se la immagina. Vediamo di capire un po' quali sono, diciamo, le cose che non emergono dai biechi fatti di cronaca, su quali poi, anche se non ci fosse un morto, ci sarebbe da ironizzare, dispiace, però alla fine vorrei quasi dire se la vanno a cercare, perché esce un po' dallo standard del quotidiano ammesso per un signore di una certa età andare abitualmente ai massaggi romantici, perché sono a poco prezzo, costano poco, è una trasgressione tutto sommato contenuta che rimane nei limiti, uno può anche ingannare se stesso, dire sono andato a farmi fare un massaggio per col mal di schiena, però lei avrà visto come me le file di signori con il cappelletto in testa, con la giacchettina grigia, che guardano contro il muro, ma vanno lì, penso soltanto per un tipo di prestazione, non credo vanno a rifarsi le ciglia alla Ligabbiana. No, diciamo che per sgombrare il campo diciamo subito una cosa, una percentuale estremamente piccola, anche se difficilmente quantificabile, perché queste cose variano molto nel tempo e variano anche a seconda della pressione, diciamo, delle forze dell'ordine, per esempio, o del controllo da parte di cittadini, solo una minima parte di questi centri si può configurare come copertura per attività prostitutive in senso ampio, cioè bordelli travestiti da centro massaggio. Nella maggioranza dei casi invece abbiamo a che fare con delle attività che offrono effettivamente massaggi che in parte possono essere di carattere intimo, ma in parte anche no, e questa è una cosa che vorrei ribadire. Molti dei centri di massaggi che sono stati aperti in questi ultimi 5 anni, soprattutto una volta che c'è stato questo picco intorno al 2012-2013, quando c'è stata la maggiore espansione di queste attività in Italia, espansione che però è coincisa anche con una maggiore attenzione su di essa, e quindi il gestore di queste attività che non vuole rischiare la chiusura, la multa o qualche tipo di controllo che poi in qualche modo segni la fine di questa attività, cerca di navigare in acque più tranquille. Diciamo che è un crinale abbastanza, diciamo, tutto è nell'happy end, uno può fare un massaggio, poi se la gioca con discrezione, se vede che è il caso, se vede che non è il caso. Fermiamoci un attimo, soltanto 800240024, riprendiamo con Daniele Cologna fra un istante, ma anche con gli ascoltatori, stanno telefonando e cominciano i primi coming out, le prime confessioni di massaggio romantico, ma non c'è nulla di male, è una cosa tranquilla, se uno ha una lombaggia o un mal di schiena ci sta anche quello. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Entro dentro e mi sorridono. Konnichiwa. Buonasera signorina. Mi stendo nudo sul lettino. Prego, stende nudo sul lettino? Brr, che freddo. Mi frizionano tutto il corpo, poi mi fanno l'occhiolino. All'orecchio mi sussurrano così. Vuole massaggio romantico per una notte romantico. Nicola da Milano, buongiorno. Nicola, lei ha fatto il massaggio romantico? Sì. Mi spieghi come funziona? Signor Nicoletti? Salve, grazie per le sue trasmissioni, io la sento quando lei era, pensi, da tanti anni. Mi dia adesso il suo importante contributo, però dobbiamo allora, capire esattamente. Il mio contributo è che io veramente, c'erano ancora le lire, pensi, e lei era ancora in Rai, e sono andato in uno di questi centri, ma ero in buona fede, veramente. Perché le faceva male la schiena, per quello è andato. No, ma pensavo fosse una cosa normale, massaggi. E cosa è successo? È successo che sono entrato, poi entrando c'era anche due persone tranquille che parlavano in un'altra camera, e una giovane che poteva, quella giovane. Io adesso ho 66 anni, quindi non sono il primo. Vado al punto, lasci perdere i particolari. Vengo al punto. Allora, mi chiede subito, vuole il massaggio normale o romantico, diciamo, no? O completo. Non mi disse, per quello fui, non capii bene la cosa. Lei disse completo, naturalmente. Ma certo, io perché ho detto, ma normale con quanto viene? Era un periodo che non mi mancava neanche, certo qualche sfoglino. Ho detto, ma normale quanto viene? Ma veramente il massaggio non lo fece, durò anche 20 minuti, 25 minuti. Massaggio mi fece un bel massaggio. E poi alla fine continuò, fino a altri uno o due, ma diversi. Quindi ha fatto un massaggio. Quanto le è costato il lire? Il lire quanto costato? Il lire 70, allora. 70.000 lire. Beh, diciamo, più o meno corrisponde ai 30 euro che più o meno costa oggi, penso, il massaggio romantico. Guglielmo, provincia da Bergamo. Sì, buongiorno. Innanzitutto grazie per l'opportunità. Ma grazie a lei che mi illumina sul massaggio romantico. Quanto l'ha pagato lei il massaggio? Niente. Ma no, guardi, io le posso dire che la cosa ormai è diramata dappertutto, è una cosa normale. Ma che nessuno ha detto che fosse normale. Chiamavo appunto per svelare questa cosa, per aprire questo ennesimo pentolone dove c'è l'ennesima cosa strana all'italiana, dove uno va, spende 50 euro. Ah, 50 euro costa il massaggio romantico? Certo, costa circa 50 euro. Ma nella vasca giapponese o con l'olio ayurvedico? Ma oddio, adesso entrando nello specifico non lo saprei dire, perché va, secondo me va un po' da centro estetico a centro estetico. Però grosso modo con 50 euro lei va via. Dipende anche dalla mano, dipende anche, diciamo, dall'esperienza e dalla capacità. Sì, dipende anche probabilmente dalla persona che finisce, che fa il finalone, chiamiamolo così. Beh, finalone. Però senza togliere. Cioè, il finale è sempre quello che conosciamo da quando abbiamo l'età dei brufoli, cioè non è che poi alla fine cambia molto. Cioè, io lo chiamerei come il giusto nome che è una masturbazione. Sì, ecco. Sì, vabbè, abbiamo detto. Qualcuno mi ha detto, è una setta cinese, Segolo. Vabbè, sì, vabbè. È quello. Cioè, la cosa interessante è che si è riempito un segmento fra il nulla e la prostituzione articolata con tutte le soddisfazioni di parafilia. È una cosa tranquilla. In fondo, le cinesine non fanno altro che un massaggino che diciamo va un po' oltre nella zona che normalmente non si massaggia, perlomeno quando uno va da un fisioterapista, che va tra l'ombelico e il ginocchio, per essere ottimisti. Gianni da Isernia. Niente, innanzitutto ero ancora turbato per quel povero papà e il figlio. Chiedo scusa. Sì, quella è una cosa seria. Qua stiamo lievemente scherzando su qualcosa che in realtà non è coerente. Ha turbato molto. È un argomento che toccheremo in un momento. Poi ci sono dei momenti in cui vanno toccate tutte le corde. Oggi ci va di trattare in maniera leggera, anche se partiamo da un fatto luttuoso. Però il fatto che ci siano tanti anziani che vanno nei centri estetici a farsi il massaggio romantico, tutto sommato mi mette allegria piuttosto che mettermi tristezza. Meglio che vanno al massaggio romantico che vederli passeggiare avanti e indietro lungo i cantieri per le strade. Allora, la sua esperienza di massaggio romantico. Vabbè, coincide con quella degli altri, 25 euro mezz'ora dalle parti nostre. Ma costa meno, per però. Il massaggio. Sì, per il massaggio, e 50 per il massaggio romantico, che oramai è inequivocabile in che cosa consiste, no? Vabbè, sì, lo sappiamo. Però io penso che sia più che altro una questione anche di non perdita della dignità, perché non c'entra niente la prostituzione. Cioè, personalmente il contatto fisico che adesso purtroppo con le nostre mogli non c'è, a differenza di quello che dice lei, non è una cosa tanto innocente il massaggio romantico. Io penso che se lo sapessero molte quindi mogli, il problema è che le mogli a un certo punto raffreddano il loro istinto di tenerezza sessuale con i mariti, quindi i mariti, per non tradire fino in fondo, cioè per non farsi un amante e non andare a prostitute, vanno a fare il massaggio romantico. In fondo è come se lo facessero da soli, gli dà una mano un altro, alla fine c'è poco di male. Torniamo un attimo all'inchiesta che avevo sentito di Alessandro Sarcinelli della Stampa, sentiamo la seconda parte che entriamo più nei termini, diciamo, della cronaca rispetto a questo problema che stiamo toccando con una certa leggerezza. In tutti i 15 centri massaggi presi in considerazione viene offerta una prestazione sessuale non completa. Ma chi ha studiato in maniera più approfondita il fenomeno tende a non generalizzare. Nonostante l'autonomia dai gestori, la qualità della vita delle ragazze rimane molto bassa. I clienti non sembrano preoccuparsi di questo e in testa hanno un solo obiettivo. Dopo uno o due appuntamenti, il cliente riesce quasi sempre ad ottenere un rapporto completo. In rete si scambiano commenti su quali siano i posti migliori. Velocemente, Ferdinando da Roma, poi risentiamo il nostro sociologo perché mi rendo conto che c'è un grande desiderio di raccontare questa trasgressione. Ferdinando da Roma. Pronto, buongiorno. Sì. Senta, io ho una certa età, ho detto che ho 76 anni, no? Ah. Mia moglie si avvicina alla mia età. Sì. Però io ancora mi sento uomo, quindi non posso chiedere un rapporto a mia moglie, anche a quell'età sarebbe una cosa. Vabbè. Così. Allora, quindi che faccio? Devo, in qualche modo, devo provvedere. Se sono, se ancora mi sento uomo, come faccio? Sua moglie nemmeno il massaggio romantico le concede, nemmeno il massaggio romantico. Ma quale piacere c'è, scusi. Sì, c'ha ragione alla fine. Con una donna anziana. Vabbè, poverina, anche dire, lei è anziano, no. Sì. Quindi per me, sì, sono anziano, però ancora mi sento uomo, lei sa meglio di me. Che una donna arrivata, non so, dopo i 60 comincia a perdere il gusto, il piacere e tutto. Quindi mi devo rivolgere da qualche altra parte. È noto che questi centri massaggi personalmente mi sono utili. Quante volte a settimana si rivolge al massaggio? Una volta alla settimana. Quindi un massaggio romantico a settimana, non si è mai dovuto lamentare? Sono felice, altrimenti che faccio? Quanto le costa un massaggio? Quanto le costa un massaggio romantico? 50 euro. Beh, sono 200 euro al mese, una bella cifretta comunque. Ma fa bene al mio fisico, alla mia mente. No, ma lei diciamo è il target perfetto. Abbiamo capito che in realtà, come diciamo prima con Daniele Cologna, che ricordo che è un sociologo dell'immigrazione, un sinologo, sono andate a inserirsi una fetta di mercato che in realtà nessuno soddisfava. Daniele Cologna, lei ha detto che c'è un'articolazione che non si può radicalizzare semplicemente col massaggio romantico, però in effetti svolgono una funzione sociale, se vogliamo vederla con uno spirito totalmente laico, queste signorine. Probabilmente è così, anche se la questione di fondo qui è che questo è un servizio che viene fornito all'interno di un'imprenditoria immigrata che è collocato in una nicchia dequalificata e di basso livello, e questo ci fa pensare come questo tipo di attività non siano affatto sdoganate in Italia, cioè non esiste in qualche modo. Cioè dovrebbe passarlo le ASL il massaggio romantico come passano, che ne so. Non arrivo a suggerire questo, però è chiaro che finché tendiamo a identificare questo tipo di attività in qualche cosa che viene svolta solo da chi... Perché dobbiamo capire una cosa, gli imprenditori che gestiscono questo tipo di attività spesso sono persone che fanno il centro massaggio perché non sanno bene come altro sbarcare il lunario, tant'è vero che da 2 o 3 anni a questa parte si è stabilizzata l'espansione di questi centri, anzi molti imprenditori cinesi che hanno capito come funziona quel settore cominciano a capire che forse quello non è il modo migliore di lavorare all'interno del comparto benessere estetico. Anche perché guardi, io non so in altre città, Milano e Roma ci sono delle strade, ce ne stanno decine nel raggio di 50 metri, ormai anche un po' saturo il mercato. Quanti saranno mai gli anziani che cercano, gli anziani o gli uomini che cercano il massaggio romantico? Secondo me c'è più offerta che domanda alla fine. C'è senz'altro una saturazione e c'è un passaggio da questo tipo di attività ad attività di tipo diverso, completamente tra virgolette legittime, come per esempio l'espansione dei centri estetici dove si fanno le unghie. Questo sì. È attualmente la tipologia di negozio in maggiore espansione e che sta in un certo senso azzerando. Fanno il French, le dipingono, le tagliano, le colorano. Esatto. Sono problemi di legalità, non ci sono questioni, no, è tutto più pulito, più tranquillo. Se le signore sono soddisfatte che il prezzo è veramente economico rispetto a un salone tradizionale. Sentiamo Viviana, finalmente una donna. Viviana, da Roma. Sì, buongiorno. Sul massaggio romantico. Sono Viviana, no, guardi, io, signor Nicoletti, le dico prima di tutto che io la stimo moltissimo, l'ascolto sempre e la ritengo una persona di una grande sensibilità, cultura e mi piace quello che dice. Oggi invece non sono d'accordo col fatto, e premetto che non sono una bacchettona, ognuno è libero assolutamente di fare quello che vuole. Però di chiamare questa cosa un massaggio romantico. Ma lo chiamano loro, la parola romantica ha un suo significato preciso molto bello, molto diciamo migliore di quello che lei mi sta dando. Questo qui non ha niente a che fare con... Sì, con Viviana, romanzi. Scusi Viviana, no, aspetta, non l'ho inventato io, lo chiamano così, nel tariffario c'è scritto massaggio romantico, non è che l'ho inventato io. A parte il termine romantico, è un termine soggettivo, il senso del romanticismo nell'Ottocento erano le rovine dell'antica Grecia, oggi magari è romantico ascoltare la canzone di un cantautore o guardare magari da un grattacielo lo skyline di una città, è un concetto che cambia con il tempo, cambia con la percezione, con l'equazione personale di chi lo subisce. Per l'anziano, per l'uomo in cerca di un palpito, di una mano amica che gli faccia ricordare che è uomo, probabilmente anche la cinesina svolge un'azione romantica. Ci proviamo un istante, fra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Non si arresta il giro di vite contro i centri massaggi gestiti da cinesi, locali del sesso low cost, camuffato da centro benessere di bassa categoria. Qui il listino prezzi prevedeva un massaggio da 40 minuti a 30 euro, di un'ora a 60. Un trattamento in vasca da bagno da un'ora saliva a 70 euro, ma era in acqua. Disponibile anche un massaggio a quattro mani con due ragazze, 40 euro per mezz'ora, 60 per l'ora intera. Con 20 o 50 euro in più si arrivava al massaggio intimo e appunto al rapporto orale. Ovviamente i clienti erano tutti uomini, pagavano il conto unico alle cinesi impiegate per 500 euro al mese o direttamente alla cassa. La squadra mobile ha denunciato la titolare cinese del centro Angela Estetica. La 46enne dovrà rispondere di 800240024. Stiamo affrontando il tema del massaggio romantico. Ripeto, questa è una dicitura da tariffare, non l'ho inventato io. Trovo che però per qualcuno possa essere considerato anche romantico. Nel horror vacui da ogni possibile palpito carnale nelle persone che ci circondano, anche una cinesina che ci fa il massaggio romantico sembra improvvisamente di lambire le soglie più indicibili del piacere o della leggerezza. Lucia da Brescia, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, io volevo raccontare una mia esperienza, per carità, è singola, nel senso che lo so solo io in questo caso, ma secondo me è significativa. Per fare una cosa veloce, le spiego subito. Mio cugino tempo veloce fa, nel senso di massaggio romantico, no? No. Sì, beh, l'argomento è quello. Allora vada al succo della vicenda. E mio cugino ha sposato una ragazza cinese che ora non più da sposata, ma per un bel po' di anni ha fatto appunto questo tipo di lavoro. La massaggiatrice romantica. Esattamente. Dopo parecchio tempo, perché... Non è che vengono i calli alle mani. No, si può fare. Il problema è questo, che dopo una certa insistenza per cercare di capire com'era questo lavoro, si è un po' raccontato sia di lei sia delle colleghe, e il punto focale è questo. Quasi sempre fra di loro commentavano, prima di tutto con commenti pesanti e cattivelli. Almeno quello spesso, glielo lasci. Sono d'accordissimo. E soprattutto spesso dicevano fra loro che schifo. Cioè, il punto è questo. Vabbè, non credo che andare a maneggiare le fiacche, appendici, senescenti e purulente dei nostri anziani sia delle attività che ispirano sentimenti o palpiti di piacere. Fa un po' sorridere il fatto che un uomo paghi per farsi fare una cosa, può farsi anche da solo, capirei altre cose, però ognuno ha i suoi piaceri e il diritto di esercitarli. Anna da Roma. Sì, buongiorno. Sì. Allora, volevo dire semplicemente questo, che se una moglie a una certa età, dopo i 60, si ritira, forse non c'ha un bel rapporto col marito. Io ne ho 70, non c'ho più la frequenza di prima e non mi girano più gli ormoni come prima, però non ho il problema di avere un rapporto sessuale. Cioè lei dice, come le tagliatelle fatte in casa, il massaggio romantico ce lo facciamo in casa. Ma sì, ma anche non il massaggio romantico, anche un rapporto completo. Allora, non sarà no, più non faccio la prima della classe, però, scusi, Anna, non faccio la prima della classe, io ancora gli do sotto come ai bei tempi. Non è per tutti così. Fosse così, le cinesi invece fare massaggi romantici starebbero lì a fare la fila per fare le pulizie nei palazzi, per dire, oppure per fare altri tipi di attività, e fanno un massaggio romantico. Ci sono tante persone che non hanno la fortuna di avere una moglie di 70 anni che ancora romanticizza e massaggia in famiglia. Roberto. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Volevo dire che innanzitutto non è una cosa che io sono un frequentatore di questi centri. È un esperto, è diciamo. È una cosa che ci si può fare da soli, perché un massaggio del genere con la classica happy end non è la stessa cosa che farselo da soli. Esatto, mi fido sulla parola, si figura. E poi vorrei dire comunque che... Ma qual è la differenza? Usano prodotti particolari o è proprio nella maestria? No, è nella maestria, diciamo. No, perché a parte il fatto che nelle mie campagne c'era il trucco della mano morta. Sì, lo sa come funzionava, no? Uno... Una volta che correvo... Non mi faccia finire, no, scusi, dico. Non mi sente. È uscita una coppia di cinesi, maschio e femmina, e la femmina mi ha soccorso e mi ha massaggiato la caviglia. Sì, ma qua non si parla di caviglia, si parla di altre appendici. Comunque, salto la spiegazione cosa sia la mano morta, perché è una cosa abbastanza... Però, diciamo, usa perdere la sensibilità a una mano per avere l'impressione che sia qualcun altro che opera invece che la solita attività autonoma. Ce ne sarebbero tanti, non li posso sentire tutti. Daniele Cologna, vediamo di chiudere. Voglio solo capire una cosa: queste signore che praticano il massaggio romantico sono ascrivibili in delle libere professioniste regolarmente retribuite, liberamente, che si esprimono liberamente nel campo professionale, o rientrano in quel semischiavismo che molte volte è facile riscontrare in attività del genere? Ma direi che è proprio questo un po' il problema, cioè forse in questo campo bisognerebbe essere un pochino meno ipocriti e capire che quello che stiamo facendo è relegare agli strati più bassi della popolazione anche i nostri in qualche modo desideri o insoddisfazioni, senza porsi troppo il problema del fatto che qui abbiamo a che fare fondamentalmente con delle persone che con questo tipo di attività si devono guadagnare il pane fondamentalmente, e lo fanno facendo un'attività che non è regolamentata e che è sicuramente sottopagata. Non la metterei nelle attività di carattere servile o paraschiavistico, perché non di questo si tratta. La maggior parte di queste persone, soprattutto quando sono ragazze giovani, di fatto vengono reclutate come se fossero delle bariste o delle cameriere o delle sciampiste, cioè il rapporto di lavoro è esattamente in quei termini. Diciamo, lì. La categoria merceologica che applicano è quella delle cure estetiche. La questione vera è diciamo anche che nessuna tendenzialmente di queste persone fa cose che non vuole fare. Ecco, ma gli viene chiesto dal datore di lavoro, diciamo, un extra, e si conquistano loro a loro piacimento, se vedono che è il soggetto giusto. Nei lavori che sono stati fatti dal gruppo rispetto al quale ho fatto supervisione io, è emerso che è più vero il contrario, cioè che sono spesso le ragazze che in qualche modo arrotondano di propria iniziativa, mentre invece i gestori, soprattutto da 2-3 anni a questa parte, sono diventati molto più cauti e vorrebbero invece che le attività fossero di carattere, diciamo così, massaggio rilassante, puramente estetico e benefico, sì, non romantico. Per definirlo estetico, diciamo, sicuramente volto al benessere del cliente, ma che non implichino attività sessuale, tant'è vero che molti di questi centri lo scrivono anche a chiare lettere all'entrata, cioè qui non si fanno, non si offrono prestazioni di carattere sessuale. Oddio, adesso lei conosce bene quella che è la logica orientale. Siamo anche molto ipocriti, vorrei capire qual è la differenza fondamentale nel massaggiare una spalla, nel massaggiare una gamba, un muscolo, la schiena, o massaggiare quei 4-5 centimetri di stanca appendice maschile che sta sotto l'ombelico. Ma questo è un altro discorso che riguarda la nostra percezione del corpo e del sesso. Grazie a tutti i romantici che oggi ci hanno dato delle istruzioni sul massaggio romantico. A presto.